for launch in 3, 2, 1. Iniziare il ballo vi auguro un benvenuti a tutti nel mio mondo, dove c'è solo musica e verità, perciò mi permetto di ringraziarvi già. Per il vostro primo ascolto di questa banda che fa parte del mio nuovo lavoro, per quelli che non mi conoscono mi chiamo Digitalo e sono di ritorno con questo singolo per farvi ballare con ritmo. Dunque preparatevi bene, fate un salto e alzate la mano, che nella discoteca ora inizia lo spettacolo. Sì. Se offenderò qualcuno io già me ne scuso, ma sono un italiano che scrive nel momento in cui ne ha bisogno. Le parole del brano non dipendono dal mio umore, ma piuttosto da quello che mi hanno fatto. Non importa chi è stato, come o quando, l'importante è ricordarlo, ma non subirlo. Solo così ti forgerai un'esperienza, comunque io me lo sono promesso. Certe volte la verità noi la vediamo come una bugia, ci vuole solo un po' di fantasia, però quello che sia, noi lo mandiamo sempre via. Ma il problema non cambierà, perché lei ritornerà, poi la fantasia si cancellerà e noi prenderemo comunque tutto in faccia. Ma ora dimentica tutto e lasciati trascinare dal ritmo. Ma che fai ancora qua? Ma che fai ancora qua? Digitalo, is back. Dai in pista a balla, dai in pista a balla. Digitalo, is back. La festa è di qua, la festa è di qua. Digitalo, is back. Per te il disco mixerà. Ups, sorry. Le mattine sono pigro, mi rendo conto che non riesco a svegliarmi quando devo. Poi panico nel bagno, non c'è spazio, non c'è più tempo. Dentro questo mondo tutto è contato al secondo, niente più considerato, neanche un ritardo, neanche un sbaglio, neanche un regalo, neanche un detto. Che vuoi ancora da me? Lo sai già che senza di te non sono un granché. Ma perché non ti lascio andare? Io non posso più sperare senza demoralizzare, realizzare che non desideri più stare con uno come me. Eri la mia stella spaziale, ma tanto oggi diventa tutto falso. Anche un bel ti amo non ha più significato. Si usa come un'auto, tu la prendi e poi lasci. E noi chiameremo comunque tutto in faccia. Digitalo, ma ora dimentica tutto back. E lasciati fai trascinare qua, dal ritmo. Digitalo, is back. Dai in pista a balla, dai in pista a balla. Digitalo, is back. La festa è di qua, la festa è di qua. Digitalo, is back. Per te il disco mixerà. Digitalo, is back. Ma che fai ancora qua, ma che fai ancora qua. Digitalo, is back. Dai in pista a balla, dai in pista a balla. Digitalo, is back. La festa è di qua, la festa è di qua. Digitalo, is back. Per te il disco mixerà.